Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus Peter Siegler. La finestra sul cortile. Ben ritrovati alla finestra sul cortile da Cristina Battocletti. Oggi la nostra finestra internazionale sul mondo spazierà dall'America alla Cina, ma non dimenticherà Spagna, Iraq, Argentina e Arabia Saudita. Ma sentiamo subito il sommario. America. Apple. La segretezza aziendale ad ogni costo. Dovuta correttezza o comportamento ai limiti della paranoia? Germania. Il clima di tutto il mondo in 5.000 metri quadrati. Cina. Le ruspe sulla via della seta. Come distruggere una città fondamentale per la storia dell'arte. Iraq. Al fronte con la musica. Cosa ascoltano i soldati americani in Iraq? Argentina. Il Walkman 30 anni dopo. Le reazioni di un bambino di oggi con in mano un Walkman. Arabia Saudita. Libri a domicilio. Grande successo per le biblioteche mobili. Iniziamo con gli Stati Uniti, scandagliando a raggi X una delle aziende più famose del mondo, la Apple, che produce quei computer e sistemi software con un design inconfondibile. Comunque sembra che la Apple, a quanto riporta il New York Times, applichi così alla lettera il culto del segreto aziendale che si arrivi alla paranoia, così dice il giornale americano. I vecchi dipendenti di lunga data, sono esasperati e si sono sfogati con il magazine americano. Ed ecco che i nodi sono appunto venuti al pettine. Tom Burgel, l'autore dell'articolo, deve essere rimasto piuttosto scosso dalle interviste che ha fatto ai dipendenti per definire il sistema di policy aziendale un sistema che farebbe invidia al dittatore coreano Kim Jong-il. I dipendenti, secondo i racconti delle cosiddette gole profonde, ogni volta che ci sarebbe una novità di tipo aziendale, un nuovo prodotto, sarebbero riuniti nel luogo dell'assemblea. Gli sarebbe spiegato il prodotto, nelle linee innovative, nella sua forza, ma poi quando la dimostrazione va verso la fine arriva una parolina magica, ancora una cosa, proprio come quando i genitori ci riprendono da piccoli, ci lasciano un permesso però poi subito ci chiedono qualcosa in cambio. E l'autore dell'articolo dice: un velo nero totalitario ricopre i dipendenti, e non è propriamente una metafora, perché vediamo che il segreto aziendale non è proprio normale nella Apple. Ci sono delle strategie di marketing piuttosto strane. Addirittura arrivano alla paranoia, dice l'autore dell'articolo, e alla repressione, perché infatti la Apple ha fatto diverse cause sono state intentate a chi ha diffuso informazioni via web, anche ai blogger, che ha dato alcuni dettagli, magari facendo pubblicità, dettagli che in azienda avrebbero voluto tenere ancora in seno, che è un diritto sì, ma c'è una perdita di stile, in fondo si va contro al primo emendamento della Costituzione americana in cui c'è la libertà di culto, di parola e di stampa. I collaboratori esterni di Apple, per esempio i fornitori, hanno una formula, diciamo, di segretezza però piuttosto blanda, quella normale usata normalmente nel mondo industriale. Più inquietanti invece sono i particolari in relazione ai metodi impiegati all'interno per evitare e frenare le potenziali fughe di notizia. I dipendenti sarebbero vigilati con delle telecamere di sorveglianza dall'ufficio centrale. Chi lavora invece ai progetti più segreti deve sottoporsi a stretti controlli di sicurezza, prima di arrivare in laboratorio e chiaramente dopo. E gli operai devono invece coprire con un tessuto tutta o parte del prodotto a cui stanno lavorando e indicare poi, premendo una luce rossa, la fine del lavoro e unico momento in cui possono togliere il telo e avviare l'oggetto così all'imballaggio. Ancora, diciamo, sono ancora più machiavellici perché poi hanno l'abitudine di fornire informazioni errate ai dipendenti sui progetti in corso, attendendo che l'informazione arrivi all'esterno per poi dare il colpo di grazia al dipendente infedele e licenziarlo senza un processo. E la stessa comunicazione, dice l'autore dell'articolo, malata, che è stata usata riguardo alla salute di Steve Jobs, che è il leader della alla Apple, perché non è ancora chiaro che tipo di malattia abbia, se stia guarendo o no, ma comunque ha fatto precipitare in un certo modo l'immagine dell'azienda. Insomma, uno scenario piuttosto inquietante, comprensibile ma non giustificabile dalla battaglia terribile tra Apple e Microsoft, che è la battaglia industriale del millennio, visto il progresso e il fondamentale apporto dell'informatica. Per capire però fino in fondo a che punto si può arrivare nella policy, nella segretezza aziendale, diamo il benvenuto al sociologo Domenico De Masi. Ben trovato, Domenico De Masi. Grazie a lei. Abbiamo sentito di telecamere, di teli per coprire gli oggetti su cui si lavora, di informazioni sbagliate fornite ai dipendenti, ma fino a che punto ci si può spingere? Dove si sfiora l'illegalità? Dunque, bisogna partire da un presupposto. Oggi quando si mette sul mercato una novità, che so, iPhone per dire o iPod, bastano pochissimi mesi, a volte addirittura pochissime settimane, perché i concorrenti, attraverso un'azione che noi chiamiamo di engineering reverse, riescano a ricostruire il modo con cui quel prodotto nuovo è stato realizzato e quindi a copiarlo e a farne un proprio punto di forza. Questo comporta che un'azienda capace di innovare, e la Apple è forse l'azienda più innovativa che noi abbiamo nel mondo, perché da anni e anni ogni anno mette sul mercato nuove cose, sempre bellissime, un'azienda di questo tipo ha pochissimi mesi o addirittura pochissimi giorni per trarre il vantaggio dalla propria innovazione, che poi comporta soldi e soldi di investimento per la ricerca. Quindi in un certo modo li giustifica? Io, guardi, può sembrare strano perché sono tendenzialmente una persona, diciamo, che vuole un'azienda ariosa, un'azienda in cui il rapporto tra interno e esterno è molto poroso, però in questo caso devo dire è difficile non giustificarli, perché, ripeto, basta uno spiffer, una notizia, e può vanificare anni di ricerca scientifica costosissima. Ma le telecamere, per esempio, sono legali? Ma le telecamere dipende un po' dai paesi. In Italia non sarebbero legali, ma non sono legali in alcune situazioni. Ma le condizioni di cui stiamo parlando, cioè situazioni con altissimo rischio, che per esempio di carattere militare, anche da noi sono usate le telecamere. Io non credo comunque che quello che lei ha letto si riferisca a tutta la Apple, si riferirà sicuramente ai centri di ricerca e ai luoghi di maggiore sensibilità, di maggiore delicatezza, dai quali se uscisse una qualche notizia si avrebbe un danno enorme per tutta l'azienda. Sì, ai nuovi prototipi. Ma diciamo anche questa prassi di dare notizie sbagliate è, diciamo, non corretta soltanto dal punto di vista etico? Ma io lo trovo un ballon de sé, è per scovare i disonesti. Non mi sembra una cosa troppo disonesta per scovare i disonesti, ci sono metodi molto più terribili, non parlo della tortura, ma mettere in giro una notizia sbagliata per capire chi la propaga e che danno farebbe all'azienda se la notizia fosse esatta, certo è una furbizia capitalistica, diciamo, però non vedo, ripeto, il danno della divulgazione di un segreto aziendale che è costato anni di fatica e miliardi di investimento è un danno enorme che danneggerebbe tutta l'azienda. Beh, prima lei faceva il paragone con i militari, però diciamo lì si parla di un problema di sicurezza, qua si parla soltanto di prodotti che chiaramente sono molto importanti, però si parla di sicurezza di un'azienda, tenga conto che è un'azienda enorme che ha regalato al mondo tantissima gioia. Io penso alla fortuna che ho avuto rispetto per esempio a mio padre, che amava pure lui molto la musica, di avere tutta la musica in un taschino grazie all'iPod. La Apple ha regalato al mondo una gioia infinita, pensi all'iPhone, pensi al primo elaboratore, quello cubico, piccolino, delizioso, e poi la bellezza estetica, che è paragonabile a quella di Olivetti da noi. Adriano Olivetti fu uno dei primi a puntare sull'estetica per i prodotti di quel genere. Penso per esempio ai computer di Olivetti, che erano disegnati da Michele De Lucchi, e prima ancora le macchine da scrivere disegnate da Grandi, sì, Lettera 22, la Valentina disegnata da Sozzos, eccetera. Lei ricorda dei casi simili in Italia, simili a quello della Apple che abbiamo appena citato? Ma sa, in Italia non c'è bisogno di privacy per il semplice fatto che non si fa ricerca scientifica. Noi non abbiamo prodotti di altissima tecnologia segreti, ma laddove questo avviene, pensi alla Ferrari, ora io non lo so con precisione, ma ci giuro che ci sono norme severissime per difendere le novità, un nuovo tipo di freno, un nuovo tipo di pistone, eccetera, è coperto dal più assoluto segreto, altrimenti le aziende concorrenti copierebbero subito. Quindi credo che laddove si hanno prodotti di avanguardia c'è questa severità. Se non c'è severità è perché a nostra volta copiamo. Certo, nei vicoli di Napoli, dove si fa contraffazione, che so, di Vuitton, non c'è nessun bisogno di essere severi nei segreti. Quindi a questo punto ben venga la severità. Grazie a Domenico De Masi. Grazie a lei. E ora in Germania, per capire come i tedeschi siano riusciti con la loro tecnica ad ingabbiare il clima in una stanza. In realtà una stanza piuttosto grande, perché sono 5.000 metri quadrati. Comunque, quello che promette lo spettacolare Museo del Clima inaugurato da pochi giorni a Bremerhaven in Germania. Camminando per i 5.000 metri quadrati appunto di esposizione, si passa dal caldo torrido del deserto nigeriano, a caccia inclusa, al freddo polare dell'Alaska. Nel mezzo decine di altri climi mondiali, lungo un percorso che include anche climi inquinati, probabilmente più familiari ai visitatori. Per chi comunque non ne avesse abbastanza, la tecnologia messa a disposizione dal museo permette anche di inventarsi il proprio clima. Gli ingredienti: fuoco, terra, acqua, aria, attenti però a come dosarli e soprattutto nel proprio appartamento. In Cina ora, perché c'è un'emergenza. La città oasi di Kashgar, sulla Via della Seta, nella Cina occidentale, vedrà il suo centro storico consegnato ai bulldozer. Chi non è venuto a Kashgar non è mai venuto nello Xinjiang, ribadisce uno slogan turistico alle porte della città. Chi vuole vedere questo gioiello dell'Asia centrale si affretti a comprare i biglietti aerei, perché tra poco sarà soltanto un mucchio di macerie. In realtà i bulldozer si sono messi in azione lambendo soltanto il centro storico, vecchio più di 2000 anni di storia. Hanno raso al suolo l'intorno, ora manca il cuore, in cui 50.000 abitanti saranno spostati alla periferia della città, mentre sulle macerie di quella meraviglia architettonica sorgerà un centro modernissimo, banale, omologato agli altri centri cinesi che sono sorti e continuano a sorgere come funghi nel paese. Lo Xinjiang in mandarino significa nuova frontiera, e in particolare nella zona di Kashgar abita una popolazione in prevalenza di fede musulmana di lingua turca, in un territorio montagnoso e desertico, grande tre volte la Francia, che si autodefinisce Turkmenistan orientale. Ma è un nome che nessuno deve usare, a pena di essere bollato dalle autorità cinesi come terrorista, separatista, estremista religioso e quindi incarcerato. Comunque, tornando alla nostra vicenda, la facciata della moschea di Idka, bellissima, nel cuore del centro, sarà sostituita da un centro turistico. Il restauro, se così si può chiamare, di Kashgar è iniziato nel 2000. Lo spazio dove si teneva il vivace e disordinato mercato serale è già stato spazzato. Ora c'è un megaschermo in cui vengono trasmesse soap opera cinesi, in cinese, non certo in lingua turca. E nel 2000 il restauro si è addirittura accelerato, è stata distrutta una magnifica casa millenaria poco fa e nella via principale è stata installata una statua gigante di Mao Zedong. Sulla moschea troneggia un pannello che recita così: tutti i gruppi etnici del luogo vivono in amicizia e cooperano per costruire una patria magnifica cinese, il che suona un tantino minaccioso e quasi suggerisce il motivo di questo accanirsi nella distruzione. La finestra sul cortile. E ora in Iraq, perché dal New Yorker, a pochi giorni dall'inizio del ritiro delle truppe americane dal paese, un articolo di Lauren Collins ci racconta i gusti musicali dei Marines in guerra, proprio in Iraq. Nell'inverno del 2004, racconta Collins, il compositore Jonathan Pislack, professore di musica al City College di New York, aveva presentato una ricerca in cui si raccontava come in un sito di fans accaniti della band metallara Slayer... E anticipiamo soltanto alcuni titoli, tipo L'Anticristo o Suicidio Obbligatorio, c'erano tutti i militari impiegati in Medio Oriente. Partendo da questa suggestione, Pislack in aprile ha pubblicato un saggio, un libro, con la University Press dell'Indiana, dal titolo Sound Target, i soldati americani e la musica nella guerra in Iraq, che appunto spiega il ruolo della musica nella recluta dei Marines, ma anche nel combattimento, negli interrogatori e gli effetti proprio sul morale. In primo luogo ascoltare l'heavy metal, spiega il compositore, con il doppio registro della batteria martellante e dello stridulo tremolo della chitarra elettrica sarebbe il modo migliore di preparare mentalmente i soldati alla missione, perché assomiglia molto il suono a una mitragliata, come lo scaricarsi di un fucile. Insomma, qualche cosa che letteralmente carica il morale del Marine quando proprio la voglia e la motivazione alla battaglia è sotto ai tacchi. Dunque, i Metallica sono in cima alla lista delle loro preferenze, ma a Fallujah, ha spiegato un soldato, niente è stato meglio come Go to Sleep di Eminem. E pompare alcune canzoni serve a eliminare la paura, a ridurre il senso di frustrazione e l'irritazione del confine in Iraq, e tra gli altri brani da carica ci sono Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses e Hell's Bells degli AC/DC. Ma ne può raccontare molto di più uno che di musica se ne intende, il giornalista, anche collaboratore del Domenicale, Pier Andrea Canei, ben trovato. Grazie mille. Allora, è noto che i soldati ascoltino musica in Iraq durante la battaglia, che la usino per caricarsi per i combattimenti? Beh, è molto noto che un piccolo iPod nano ci sta benissimo sotto il giubbotto antiproiettile. Ed è anche noto che è facile collegarlo al sistema di diffusione di un blindato. Per cui i soldati americani mediamente si portano dietro il loro repertorio di Slayer, di Drowning Pool, di altre band dedite generalmente alle forme più violente del rock, cioè il cosiddetto thrash metal o doom metal o death metal e via dicendo, e se lo portano in giro in missione per proprio staccare praticamente col cervello e diventare energia pura. Ecco, lei ha sciorinato una serie di nomi che io non ho capito, ma ce ne spiega qualcuno? Trash, Dam, non mi ricordo più. Sono dei generi. In realtà praticamente si tratta di musica in cui il quoziente di bassi, il ritmo, le distorsioni sonore e anche le urla dei cantanti si fanno particolarmente violente e nichiliste. Ecco, noi abbiamo nominato soltanto alcuni titoli. Lei se ne ricorda altri, per esempio, oltre a Welcome to the Jungle, agli AC/DC? C'è una canzone in particolare di una band texana, la band si chiama Drowning Pool, il pezzo è Let the Bodies Hit the Floor o Let the Bodies Fall. Si può ascoltare, tra l'altro, per chi ce l'avesse a casa, nel documentario di Michael Moore, Fahrenheit 911, è un pezzo che è diventato praticamente una sorta di inno non ufficiale dei Marines in Iraq, al punto che basta cercare su YouTube qualcosa tipo Marines Drowning Pool e si vedono proprio le azioni di battaglia riprese e montate dagli stessi Marines con questa canzone, che è particolarmente brutale. Un altro pezzo invece, fin qui non abbiamo parlato, però anche l'hip hop è particolarmente amato. C'è una canzone che si chiama I Don't Give a Fuck, che si può tradurre non letteralmente, non me ne importa un fico secco. Anche qui ritmo, proprio portato alle estreme conseguenze. C'è anche una parola in slang che serve agli americani per definire il loro stato di esaltazione ed è crunk, che vuol dire proprio stordito al massimo livello. Bevuto quasi. È vero che si fanno una playlist loro, lo fanno insieme? Lei ha notizia di questo, magari no, prima del combattimento? Certo. Beh, ovviamente i file MP3 che circolano da un iPod all'altro, da un CD a un PC, sono moneta corrente, ma non solo. Gli stessi ragazzini iracheni, svegli ovviamente, e dotati di collegamenti internet, sono perfettamente in grado di reperire e masterizzare e vendere agli americani la musica preferita degli americani. Magari gli iracheni preferiscono, che so, il povero Michael Jackson oppure Beyoncé Knowles, però sanno benissimo che vanno a rivendere agli americani il loro band di death metal e di hip hop violente come piacciono a loro. Beh, mi sembra quasi giusto che ne approfittino. Allora, grazie per la competenza e arrivederci a Pierandrea Canelli. Lo hanno preso in giro tutti, Scott, 13 anni, quando si è presentato nella sua scuola madrilena con in mano un Walkman. Un Walkman proprio quello che pochi giorni fa, il 1 luglio, ha compiuto 30 anni. Era infatti il 1 luglio del 1979 quando l'azienda giapponese lo lanciò sul mercato. Ho accettato di provarlo perché mio padre ha detto che questo era l'iPod dei suoi tempi. In realtà il tutto è un esperimento della BBC che ha chiesto a questo bambino di provarlo per una settimana e di vedere che reazione aveva. E la prima reazione è stata di sorpresa per il peso e del volume. Mi sembrava di girare con un piccolo libro, ha detto, e quindi si era posto il problema della portabilità. E quindi non stava in un taschino, non stava in una tasca, ma comunque Scott ha trovato il modo. Lo ha appeso con la clip ai pantaloni. E poi appunto l'esperimento voluto dalla BBC ha cominciato a diventare un po' difficile quando l'ha portato a scuola. Ha scatenato infatti le opposte reazioni. C'è stato un dileggio da parte dei compagni e una nostalgia forte da parte dei professori. La vera scoperta però per Scott è stata vedere che le cassette, se premevi il tasto sbagliato, il famoso REC, potevano registrarsi sopra e i motivi poi non andavano all'infinito, ma che dopo 20 minuti la festa finiva e che quindi bisognava cambiare lato. E trovare le cassette è poi stato difficile, bisognava fare attenzione alle batterie che finivano e si rimaneva senza musica, mentre questo con l'iPod è veramente difficile. L'unico vero vantaggio, lui ha risposto, avere fatto contento papà e provata la gioia di due cuffie con effetto stereo e che non scappano dalle orecchie. Le biblioteche mobili non sono una novità. La vera novità è il successo di pubblico, se così si può dire, che hanno avuto in Arabia Saudita. Più di 70.000 studenti nella regione occidentale di Kingdom hanno beneficiato infatti del servizio nel 2008. Un vero e proprio record. Chi ha più interesse è comunque il pubblico femminile. Il bus con i libri ha visitato i villaggi più sperduti cercando di solleticare le fantasie dei ragazzi con le letture. E la biblioteca mobile trasporta circa 11.000 volumi con 240 titoli per studenti di varie classi. Il direttore del progetto, Nabil Basham, ha chiesto l'appoggio delle autorità locali perché sono fondamentali per essere accolti in un piccolo villaggio e perché il progetto avvenga con successo. Instillare la lettura nei bambini è fondamentale, spiega Basham, alle autorità che incontra. Saudi Aramco, così si chiama l'associazione che organizza i tour e di cui è presidente Basham, ha iniziato il suo progetto nel 1982 e quindi ha un'esperienza quasi trentennale. Di solito, soprattutto nei villaggi immersi in paesaggi remoti, sono gli studenti e gli insegnanti che li accolgono con gioia e con la speranza di vedere qualcosa di diverso. Durante gli anni l'associazione ha ricevuto numerosi premi e per questo progetto programma che instilla proprio l'amore per la lettura dalle scuole elementari ed è famoso anche per indurre gli studenti alle letture scientifiche e a provare esperimenti scientifici. La libreria viaggiante l'anno scorso ha visitato circa 3.000 scuole e fatto 1,5 milioni di prestiti. Il magazzino in cui si riforniscono i camioncini ha uno stock di circa 50.000 volumi di cultura araba, si specifica. Allora noi speriamo che per una così lodevole iniziativa arrivino presto anche traduzioni da tutto il mondo. Il nostro spazio sulla cultura internazionale finisce qui. Un grazie a Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, a Giorgio Mattè in regia, un arrivederci da Cristina Battocletti. La finestra sul cortile torna la prossima settimana. Buon weekend.